Ja, Jörg! Regà, questo concerto lo dedichiamo a Roberto Viacibardi. Noi siamo i cani, i verano dogs. Prossimo pezzo, virus letale. Bella! Prossimo verso! Duff! divorci! Stanza 27, l'angolo delle torture. Thank you. chosen one, the chosen one. Bella, grazie. Posso averci? Inchiodati! Si comincia a riscaldare. Prossimo verso in una società infetta. Panico avanzato. Thank you. prossimo pezzo è un po' lungo, vedi? 7 secondi di odio. Alla fine il pezzo che ci esce meglio. Ultimo pezzo, questo è dedicato alla zona dove giriamo. Sale pezzo, devastation. Bella, ciao, alla prossima!